La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme amici, un saluto da Franco D'Assisi. Questa è l'ora di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea, ultimo weekend d'agosto, un weekend che significa molto per il cinema, significa Festival di Venezia che sta per cominciare, significa grandi film, almeno sulla carta, in grado di attirare il grande pubblico che dovrebbero accompagnare le folle tornate dalle vacanze in sala, insomma puntata che vive su tre poli. Da una parte vi parleremo dei nuovi film, dei primi film in sala di questo, non tanto di questo fine settimana ma anche del prossimo, a partire dal Cavaliere Oscuro, perché poi settimana prossima saremo in onda da Venezia, una presentazione importante della mostra del cinema che sta per cominciare e la fine di questo tour, di questo itinerario attraverso i set dei nuovi film italiani che vedremo nella prossima stagione, che ci ha tenuto compagnia per tutto agosto. Oggi chiuderemo con un grande nome del nostro cinema come Silvio Soldini. Insomma, tanta carne al fuoco qui alla Rosa Purpurea come sempre, e allora andiamo a riepilogare i contenuti principali nei nostri titoli di testa. Il Leone di Venezia pronto a ruggire. Mancano ormai pochi giorni al via della 69esima Mostra del Cinema, la prima dopo il ritorno di Alberto Barbera alla presidenza. Film italiani e star americane nel nostro approfondimento. Dopo la tragedia di Denver, che ha segnato tutto l'entourage, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, arriva sugli schermi italiani, con Christopher Nolan in regia, Christian Bale ancora nei panni dell'uomo pipistrello e un nuovo super malvagio, Bane, a mettere a ferro e fuoco Gotham City. E intanto trovano spazio anche i primi titoli d'essè della nuova stagione cinematografica. Si va dall'inquietante casa che fa da sfondo al thriller psicologico argentino El Campo a Monsieur Lazare, storia di un maestro davvero speciale in una scuola elementare canadese. Silvio Soldini chiude l'agosto della Rosa Purpurea alla scoperta dei nuovi film italiani dell'autunno e dell'inverno. Il regista di Pane e Tulipani ci parla de Il Comandante e la Cicogna, il suo nuovo lavoro interpretato da Valerio Mastrandrea, Alba Rohrwacher e Claudia Gerini. Ti piace? Che vuoi? Che voglio? Che vuoi? Ti piace la casa? Io dormo vestita, ti avverto, Avete sentito un breve dialogo tratto dal primo film di cui vogliamo occuparci, fra quelli che usciranno entro fine mese, diciamo, nei nostri cinema. Stiamo parlando di El Campo, che nella traduzione letterale significa La Campagna. È un film argentino che arriva in Italia, diretto da Hernán Belón, è stato presentato lo scorso anno, proprio di questi tempi, alla Mostra del Cinema di Venezia, alla Settimana della Critica, e arriva nelle sale cinematografiche, distribuito da Cinecittà Luce. Un film molto molto interessante stilisticamente, a livello proprio di uso del linguaggio cinematografico e tematicamente. Avete sentito Santiago ed Elisa, rispettivamente Leonardo Sbaraglia e Dolores Fonzi, soprattutto lui, Leonardo Sbaraglia, uno dei principali attori argentini, una giovane coppia benestante, intuiamo che lui può essere un professionista, chissà un architetto di Buenos Aires, che arriva in campagna. Decide questa coppia di trasferirsi con la piccola figlia Matilda in una casa di campagna. Casa di campagna molto bella, ma anche un po' vetusta, abbandonata da tanti anni, piena di cigolii sinistri, in mezzo a una pianura sicuramente che dà il senso della libertà, ma anche quello di una certa inquietudine. Insomma, una casa un po' da sistemare. Siccome ci arrivano in piena notte, ovviamente, la prima notte non è proprio delle più tranquille, soprattutto quando il decadente fascino di questa casa lascia trasparire qualche sbattimento di finestra di troppo, qualche rumore sul pavimento inaspettato, e per la prima volta lo spettatore pensa a un thriller con venature horror. Niente di tutto questo, però li ritroviamo i nostri protagonisti la mattina dopo, fare colazione, mettersi di buona lena nel cercare di sistemare questa casa, però soprattutto il personaggio di Elisa comincia a maturare un'inquietudine dettata proprio da questo isolamento, da questa situazione, l'incontro con vicini di casa apparentemente un po' strani, anziani che si infilano nella casa con nessuna cattiva intenzione, ma insomma un po' onnipresenti, non fa altro che accentuare questa situazione interiore di Elisa, insieme a un luogo come dire così grande da farti sentire molto piccolo, e apparentemente agli occhi di Elisa al comportamento del marito sempre un po' più strano. Insomma, la donna, se non impazzisce, poco ci manca. La coppia a un certo punto comincia vedere più crepe che non la casa nella quale ha scelto di provare a vivere, tentativo che potrebbe essere anche da un momento all'altro abortito, ma soprattutto Elisa sembra la persona votata a pagare le conseguenze di questa scelta. Sì, amore mio, togliamo il giubbottino, togliamolo, così, ecco qui. Si può sapere che fine hai fatto? Lasciami. Perché sei sparita così senza nemmeno avvisare? Non esagerare. Non esagerare. Dove cazzo stavi? Tu non te ne puoi andare via così. Non lasciami, puoi. Dove cazzo stavi, porca puttana? Lasciami. Dove eri? Che cazzo mi pare? Ecco. Amore, guarda questi. Brava. Guarda che sei. Io t'ammazzo. Ah. Dove vai? Vado a fanculo. Mi puoi ascoltare un momento? Ti qui ascolto. Va tutto male. Sì, sento ti che ascolto. Tutto quello che mi riserva il futuro è orribile. Ah, sì. Sì. Tu trasformi tutto in qualcosa di orribile. Tu! Spera solo di avere sempre quello che hai ora. Insomma, finisce a sassate fra i due. Abbiamo detto film coraggioso sotto un certo profilo per l'impiego del linguaggio che mette in scena continuamente situazioni, elementi che lo spettatore intuisce come elementi che dovrebbero dare una svolta drammaturgica, una svolta narrativa al film. Invece regolarmente questo non succede. Ricorderete appunto il grande maestro Alfred Hitchcock diceva se una pistola compare in un film, prima o poi quella pistola dovrà sparare. E qui la pistola non spara, compare ma non spara. Succede più volte durante il film. Capiamo che è proprio l'intuito e l'intuizione di Hernán Belón quella di cercare in questo senso di quasi fuorviare lo spettatore, ma anche di aumentare, amplificare l'inquietudine della sua protagonista. Insomma, elementi che sono prove dello stato emotivo di Elisa e non indizi per qualcosa che regolarmente appunto non accade. La campagna poi in cui questo film è ambientato non fa altro che dilatare in mezzo a questo grande spazio, ambiente enorme, non fa altro che dilatare, far risaltare da una parte la solitudine della donna e dall'altra amplificare in maniera enorme e forse anche abnorme i suoi sentimenti. Insomma, un film, come ripeto, molto particolare. C'è chi lo amerà, c'è chi magari lo odierà proprio perché quella pistola non spara, però è un film che ci dice molto e potremmo dirlo con le note del regista su alcuni concetti consolidati della civiltà occidentale. Il regista scrive nelle note di regia: Elisa e Santiago si svegliano dal sonno della civilizzazione, dall'illusione dell'ubiquità e dall'abolizione del tempo che dominano la nostra moderna società e forse allontanano anche il concetto della morte. Ecco, tutto questo è raccontato in questo film El Campo, alla prima delle proposte dal 31 agosto al cinema. Fra poco, dopo la viabilità, torniamo insieme e parliamo del Cavaliere Oscuro, il ritorno di Batman. La rosa purpurea. Sta arrivando una tempesta. Sembra che non aspetti altro. Io so adattarmi. Chi sei tu? La resa dei conti di Gotham. Ebbene, avete sentito, clima abbastanza filosofico in questo spezzone tratto dal trailer del Cavaliere Oscuro, il ritorno, sì, di Batman, di Christopher Nolan, di Christian Bale, di Gary Oldman, di altri attori grandi e nuovi per questa saga. Terzo film di Nolan dedicato alle acrobazie di Batman, che 8 anni prima è scomparso nella notte. È diventato una sorta di fuggitivo. Ci ritroviamo ancora a Gotham City con il crimine che combatte e ha bisogno di una controparte, ed ecco che allora parte questa sorta di ricerca. Del resto il titolo lo dice, Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Salutiamo Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, come vedi sono tornato anch'io. Eccoti qua. Allora, parliamo del Cavaliere Oscuro, dicevamo, e quindi abbiamo ascoltato questa parte del trailer molto, come dire, l'ho definita filosofica, una film, una saga che si ammanta anche un po' di questo essere diversa, se vogliamo, no? da tutte le altre riguardanti, inerenti supereroi. Il film che, lo ricordo, sarà nelle sale dal 29 agosto. Noi abbiamo anticipato in questa puntata molti dei film che arriveranno in sala nel primo weekend di Venezia, perché poi lì saremo in onda con i film di Venezia, quindi vogliamo dare il giusto spazio, la giusta informazione ai nostri ascoltatori. È il film che si preannuncia come un po' l'acchiappatutto di questa primissima parte della stagione. Beh, inevitabilmente, con quello che poi è successo a Denver più di un mese fa, ovviamente questo ritorno del Cavaliere Oscuro, che già in qualche modo era ammantato di un'aura molto particolare, l'ultimo film di Nolan con l'eroe che gli ha dato comunque grande notorietà, insomma, è diventato sicuramente il film della stagione, nel bene e nel male. È un film molto molto particolare. Io trovo che Nolan sia davvero uno dei registi più interessanti degli ultimi anni, uno che ha fatto molte scelte forti, importanti, tra cui quello di scegliere per Batman, cioè per il film supereroistico, una virata quasi totalmente d'autore, sfruttando anche il fatto che il registro del Cavaliere Oscuro lo aiutava come struttura del personaggio e anche come avventure scritte da alcuni disegnatori particolarmente cupi, particolarmente dark, anche particolarmente incline all'introspezione psicologica. Questo terzo capitolo mi sembra decisamente meno riuscito del secondo, che a mio parere è il capolavoro di tutta la saga, non solo di quello di Nolan. Secondo me ci sono due motivi. Uno è che Nolan potrebbe essersi montato la testa, cioè dopo il secondo Cavaliere Oscuro da buona promessa, soprattutto nei film di genere, è diventato un grande maestro, e questo secondo me ha portato a scommettere su un film come Inception e poi questo ultimo suo Batman, mettendoci troppo, soprattutto a livello di introspezione. In fondo è sempre un film di supereroi. Poi perché è fondamentalmente noioso per gran parte della sua durata. Ha un finale eccezionale, come quasi sempre nei film di Nolan. Si arriva dopo, devo dire, un percorso abbastanza estenuante, e anche attraverso delle stranezze. Ricordiamo dove eravamo rimasti che Harvey Dent era morto. Harvey Dent era impazzito, era diventato cattivo, ma Batman, per il bene di Gotham City, decide di renderlo un eroe e di affibbiarsi la colpa, proprio perché il simbolo dell'onestà, il simbolo della forza che era proprio visto in Dent, non fosse macchiato. Preferisce, insomma, mettere su di sé quella colpa e di fatto si ritira a vita privata, scoprendo anche le gioie di questa vita privata per 8 anni. Poi arriva Bane, un cattivo violentissimo, estremamente violento, e lui decide di ritornare in campo, un classico delle svolte supereroistiche. Torna in campo e in alcuni momenti onestamente assomiglia a Diabolik, perché ha delle attenzioni, per dire, compra l'elmetto da una parte e le corna dell'elmetto dall'altra, perché la stessa azienda non possa fare dei legami. Poi ci si chiede, come ci si chiedeva per Diabolik, chi è che gli metteva su però il battrifugio, cioè come ha fatto a metterlo su senza che nessuno lo sapesse. Sono le piccole idiosincrasie che ci sono nel realismo, che però tanto è usato da Nolan dei film supereroistici. E soprattutto si parla tanto, si parla troppo, e l'action c'è pochissimo, è un film supereroistico importante. Va detto però, come ho già detto, che il finale è straordinario, è un finale degno della saga, e in qualche modo forse salva anche questo terzo capitolo, che però a mio parere rimane il più deludente del trittico di Nolan. L'hanno ucciso? Non ne sono sicura. Perché non ti limiti a uccidermi? La tua punizione deve essere più severa. Pensi che tornerà? Non lo so. Perché sei scappata? Bane. Faresti bene a temerlo quanto lo temo io. Io non la seppellirò. Ne ho sepolti già abbastanza della famiglia Wayne. Non devi più niente a queste persone. Hai dato già tutto. Non tutto. Non ancora. E allora, questo era Il Cavaliere Oscuro e il Ritorno. Boris Sollazzo, rimani con noi perché fra poco parliamo di Venezia, presentiamo la Mostra del Cinema di Venezia ormai ai ranghi di partenza, insomma, dal 29 agosto, e quindi restate con noi perché fra poco andremo un po' a fare un focus sulla mostra veneziana. Adesso però voglio affrontare un altro film, la terza proposta di quelle che incontreremo nel prossimo weekend, che vogliamo affrontare però già da ora, perché poi, come dicevo, ci toccherà chiaramente la puntata veneziana. Allora non volevamo far perdere spazio a film che comunque vale la pena di vedere, e parliamo di Monsieur Lazare è il titolo italiano di questo film, che nel titolo originale recita semplicemente il nome e cognome del protagonista, ovvero Bashir Lazare. È un film ambientato nel mondo della scuola, in una scuola elementare di Montreal, in Canada, dove tutto comincia con un tragico suicidio in classe, pensate, scena davvero imponente a livello emotivo, di una insegnante, di una giovane insegnante. Purtroppo un paio di bambini assistono alla scena, rimangono scioccati, è una scuola devastata, una classe da ricostruire, e soprattutto anche, può sembrare quasi cinico, un insegnante da sostituire, trovarne qualcuno che ne prenda il posto. Ebbene, non si trova nessuno, arriva questo immigrato algerino, Bashir Lazare, appunto, 55 anni, si presenta come supplente, viene assunto immediatamente, e a lui spetterà il compito di ricostruire piano piano i legami di questa classe, i sentimenti di questi bambini, cercando da una parte di non fare del tutto dimenticare, ma dall'altra anche di allontanarli da questa tragedia. Insomma, un compito molto molto difficile che Bashir Lazare affronta con grande abnegazione, con grande voglia di rimediare, e poi scopriremo che tutto sommato questa voglia è la voglia anche di guardare dentro una ferita del suo passato. Sentiamo questa clip in lingua originale. Ok, ma il remplaçant arriva quand? Je pense à travers mes listes, personne n'est disponible. Personne ne veut entrer ici après ce qui est arrivé. Là. Bashir Lazare, je viens pour le poste. C'est juste qu'il y a des procédures à suivre. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Et moi, je suis disponible tout de suite. On va placer les pupitres en rangée bien droite. On va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. C'est tiré de La Peau de Chagrin, d'Honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. Je ne faisais jamais de dictée. Jamais? Pas Balzac, en tout cas. Je pensais les amener voir Le Malade Imaginaire. Allez, expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90, c'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. E avete sentito che si parla anche di Algeria. Insomma, quest'uomo nasconde un segreto, e sarà il segreto da scoprire nel corso di questo film, che ci mette di fronte a una personalità molto complessa, ma anche di grande capacità umana. E sarà questo proprio l'aspetto che poi salverà, insomma, tutta la situazione. Bashir Lazare, Monsieur Lazare, nei cinema italiani, ricordo, protagonista è Fellag, un artista scrittore, attore teatrale, anche attore cinematografico algerino, che aveva anche recitato la pièce teatrale da cui il film è tratto, che era stato esiliato durante la guerra civile d'Algeria, e questo è un trait d'union anche con il suo personaggio. Dirige Philippe Falardeau, giunto alla sua quarta direzione, al suo quarto film, un film che ha avuto davvero grandi premi, questo Monsieur Lazare. Intanto è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero quest'anno, e poi festival e premi al Sundance, al Festival di Rotterdam, dove ha vinto il premio del pubblico, a Locarno lo scorso anno il premio di Piazza Grande. Insomma, un film che ha creato una grande empatia con il pubblico, e quindi una possibilità di vedere un film di una cinematografia diversa, ma con valori universali, e una messa in scena molto realistica che crea una grande empatia con lo spettatore. Questo è Monsieur Lazare nei cinema italiani dal 31 agosto. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme e con Boris Sollazzo parliamo della Mostra del Cinema di Venezia. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua e come promesso è il momento di parlare della Mostra del Cinema di Venezia numero 69 che sta per cominciare. La stagionalità porta il Festival di Venezia a partire ogni anno un giorno dopo, ma a un certo punto a tornare indietro, e siamo a quel certo punto quest'anno, 29 agosto addirittura, all'inizio del festival, alla fine l'8 settembre. Allora, Boris Sollazzo in collegamento ancora con noi dopo averci raccontato un po' Il Cavaliere Oscuro, una dei film di punta del prossimo weekend in sala. Beh, è il momento di soffermarsi un attimo su Venezia, sulla Mostra del Cinema. Si è detto tanto in queste settimane, dal momento in cui la mostra è stata svelata, presentata, fino a questi giorni di immediata vigilia. È il caso di focalizzare allora, Boris, su alcuni aspetti. Intanto, cominciando dal cinema italiano, ritornano tre film italiani in concorso. Qualcuno in queste settimane ha detto forse anche troppo per fotografare lo stato di salute del nostro cinema da festival, del nostro cinema d'autore, però sicuramente ci sono modi di fare cinema e cifre stilistiche molto diverse in questa scelta, a cominciare da Giorgio Bellocchio con Bella Addormentata, un film che ha già fatto discutere prima ancora di essere visto. Insomma, lo sapete ormai la situazione legata al fine vita, la storia di Luana e Luana Englaro sullo sfondo, e quindi, come dire, un tema di quelli che in Italia, ma del resto Bellocchio ci ha abituato a mettere in discussione proprio queste cose, in Italia fanno sicuramente molto, molto dibattito e molta polemica. E poi è stato Il Figlio, il ritorno di Un Enfant Terrible dei due che erano Cipri e Maresco qualche anno fa. Daniele Cipri da solo per questo film, tra l'altro da notare come Tony Servillo sia presente in tutti e due i film, e poi Francesca Comencini con la sua proposta Un Giorno Speciale. Parliamo di questi film brevemente, cominciamo a entrare però nel clima di Bella Addormentata, il film di Marco Bellocchio, con questa clip. Tu sei libera di ammazzarti e io di non farti ammazzare. Mi sentirei un vigliacco se non facessi tutto il possibile per impedirtelo. Ma non solo perché sono un medico, è un mio dovere professionale, ma per umanità, per semplice umanità. Non c'è! Angioli! Non c'è! Ma che fa? Ma sei pazzo? Stai fuori! Boris, Giorgio Bellocchio torna in concorso a Venezia. L'ultima volta, se non sbaglio, fu quella in cui il suo Leone d'Oro, diciamo così, annunciato, svanì un po' all'ultimo momento. Ma ancora una volta una pellicola del maestro Piacentino fatta proprio per spaccare sia il pubblico, sia la critica, e soprattutto per alimentare un dibattito veramente grosso. Beh, assolutamente. Tu hai fatto un'ottima crasi, perché Marco Bellocchio, in verità il regista Pier Giorgio Bellocchio, è il figlio e il protagonista, però in questo caso è talmente forte la commistione, insomma, tra i due per parlare di questo argomento, che forse Giorgio Bellocchio era il modo migliore per chiamarlo, perché insomma sta crescendo insieme al padre, l'attore italiano. Il film sicuramente entra in questo trittico che finalmente rompe intanto la lottizzazione delle produzioni e distribuzioni. Insomma, c'era una regola non scritta per cui bisognava cercare un equilibrio tra le due grandi produzioni e distribuzioni italiane. Qui si fanno scelte un po' più coraggiose, molto politiche, molto impegnate, appunto l'eutanasia di Bellocchio, la mafia di Cipri, la politica tra virgolette del bunga bunga, per semplificare, per quanto riguarda la Comencini, in senso molto lato, oppure la protesta di Se non ora quando, citando il movimento di cui la regista fa parte. Di sicuro, insomma, il film di Bellocchio spaccherà anche perché parla di un argomento molto sensibile in Italia, su cui si è discusso moltissimo. Speriamo per Bellocchio che non debba appunto rifare quello che tu hai ricordato per Buongiorno Notte, dove la delusione fu così forte che la mattina dell'ultimo giorno, capito che non avrebbe vinto il Leone d'Oro, che poi andò al ritorno, un film russo Il Ritorno, addirittura andò via da Venezia, andò a presentare il film in sala a Roma durante la premiazione, insomma, in quel caso forse non ci fu neanche il coraggio di premiare un bel film molto coraggioso. Di sicuro, pur non avendo visto il film, io parteggio per Bellocchio perché trovo che degli autori della sua generazione sia quello che abbia mantenuto una purezza etica ed estetica e una capacità di arrabbiarsi e di indignarsi e di raccontare tutto questo che in cinema e non in cronaca, che è semplicemente unica. Quindi anche quando non mi piace, amo vederlo, e non può che partire nel mio cuore con una marcia in più. Di sicuro però sembrano interessantissimi anche le altre due scelte italiane, perché insomma quella di Cipri viene definita da molti che l'hanno visto come uno straordinario film, e quella di Francesca Comencini è un film fatto in un mese con due attori molto giovani. Uno di questi è Filippo Scicchitano, che era andato già con Scialla a Venezia l'anno scorso nel Controcampo, che nel frattempo è stato tolto da Barbera, e insomma parla di questa ragazza un po' di fatto venduta dalla madre a questo politico che deve incontrare per farle fare l'attrice, che passa una giornata con l'autista di questo politico in attesa che il politico finisca le sue riunioni per accoglierla, probabilmente senza intenzioni propriamente nobili. Insomma, mi sembrano tre pellicole che parlino dell'Italia di questi anni, e in fondo si sentiva la mancanza di questo tipo di cinema civile. Assolutamente, meno intimista e più legato al racconto del paese, insomma, che mi sembra davvero una cosa importante. Adesso ti chiederò una cosa, qualcosa di più sul film di Cipri, perché sotto il profilo poi stilistico è forse quello ancora una volta capace di stupire di più. Però prima sentiamo qualche secondo del trailer. Conoscevo uno che per un graffio alla macchina ammazzò suo padre. Ora potete trasere. Chiocca! Chiocca! Tanto la rovremo. Nicola, i soldi per la spesa mi servono. Ma che ti pare che c'è la banca, ca? Ma che ti pare che sta a notte? Mi dissero che c'è uno che ambresta piccioli. O che non usci? Le condizioni le sai? E allora questo è un po' il clima, avete sentito, il dialetto, la situazione, insomma è abbastanza facile intuire dove possa andare la storia raccontata da Daniele Cipri. Mi interessa, Boris, come ci possa andare, perché anche a vedere appunto dalle prime immagini del trailer, ancora una volta è sotto il profilo della regia che Daniele Cipri gioca le sue carte migliori. Sicuramente, non dimentichiamo che forse non è il miglior direttore della fotografia italiana, ma è uno dei migliori, insomma, e di sicuro, un po' come Bigazzi, marchia i suoi film, cioè non passa inosservato, ed è una cosa positiva, immediatamente riconosci la sua mano. Non dico che è un secondo regista, ma di sicuro comunque è uno di quelli che dà le pennellate fondamentali ai film che cura. Qui ha fatto delle scelte forti, la scelta dell'argomento, anche la scelta dell'attore, che è un po' ingombrante, perché in fondo Tony Servillo è uno che in qualche modo occupa il film, ultimamente occupa proprio il cinema italiano, e ne siamo felici perché è un attore straordinario. La dimostrazione è che sta in ben due film su tre della selezione italiana. Credo che se possiamo aspettarci una novità, quella potrebbe proprio venire da Cipri. C'è un modo diverso, un linguaggio cinematografico diverso, perché sa, secondo me, sintetizzare un certo modo di raccontare diverso, con un senso estetico della visione molto molto interessante. E quindi per questo trovo che sia molto molto interessante. Ecco, Boris, abbiamo qualche minuto per parlare del resto, perché questo è il cinema italiano in concorso, ma insomma Venezia è tanta roba, e quindi un'edizione che ritrova davvero o da una parte il grande cinema internazionale, i grandi maestri, due nomi su tutti, Brian De Palma e Terrence Malick, che insomma sono nomi di portata universale assoluta, e poi anche le star, che sono spesso croce delizia dei festival, sono necessarie da un certo punto di vista, a volte ci sono, a volte ce ne sono meno. Quest'anno mi pare che i nomi al Lido saranno nomi grossi, insomma, il fronte registico, ma insomma, da Robert Redford a Spike Lee, ci saranno cast da Ben Affleck, insomma, c'è davvero, ci saranno tappeti rossi importanti, ritrovati, anche una presenza di un cinema americano impegnato, diciamo così, d'autore, di matrice importante, che mi sembra segni forse anche questa nuova conduzione di Barbera. Ma assolutamente, trovo interessantissimo, ma io sono un fan, diciamo, della primissima ora, il ritorno di Robert Redford, che ovviamente, come al solito, va all'interno dell'America a fare pulci alla storia americana e allo spirito americano e al sogno americano, insomma, le tre S degli Stati Uniti. Ma c'è anche ci sono anche scelte buffe, tipo Demi, che si occupa di musica napoletana, Spike Lee, che con un doppio salto mortale va a occuparsi di Michael Jackson, una scelta affatto scontata. Parliamo di due fuori concorso che mi hanno molto interessato. C'è De Palma che torna al thriller erotico. Ci sono delle scelte molto interessanti. Credo che Barbera dimostri di essere forse il nome italiano più interessante per quanto riguarda la direzione dei festival. Ha preso scelte forti, ci sono molti meno film, quasi il 48% in meno. La qualità è molto alta, perché poi se si va a vedere nel concorso trovi anche Assayas, trovi Kitano, trovi anche, insomma, quelle piccole furbizie, cioè quegli autori che girano un po' per tutti i grandi festival, come Brillante Mendoza, che forse non sono eccezionali, ma Barbera sa meglio di chiunque altro che ormai hanno fatto innamorare i critici e in qualche modo sono una tassa da pagare. Ecco, credo che ci sia un'unione di buon cinema e anche di realismo nel raccontare questo percorso cinematografico di Venezia 69, per cui si vuole fare un buon festival vicino al pubblico, cercando anche qualche scommessa interessante. Come hai detto tu, mancano forse i super divi, quelli che fanno ingolfare i vaporetti. Però ci sono tantissimi volti noti, tantissimi volti che hanno fatto la storia del cinema, tantissimi volti amati dal pubblico. Anche qui secondo me c'è stata una scelta interessante, non la scorciatoia facile, ma una presenza qualificante e qualificata. Diciamo, volendo fare una metafora calcistica, mi sembra una ottima campagna acquisti, poi bisogna vedere come giocheranno. Assolutamente, questo è di tutti i festival. Ricordo anche fra i divi, tu dicevi vaporetti ingolfati, beh, secondo me qualche vaporetto si ingolferà, per esempio quando arriverà Zac Efron, che comunque in un certo target è uno che ha una sua, una sua componente di fanatismo. Voglio ricordare anche, e chiudere quindi questa chiacchierata su Venezia, poi ne parleremo da Venezia nelle prossime due puntate, voglio ricordare anche che avremo un ragazzino che si chiama Manuel de Oliveira, ultracentenario, che con O Gabo e a Sombra è a Venezia fuori concorso. Per me è sempre un'emozione vedere lui, vedere i suoi film, vedere la freschezza mentale via via crescente che questo maestro del cinema, ripeto, ultracentenario, ha cominciato a fare film col muto, ha saputo aggiungere film per film proprio negli ultimi 10-15 anni. Quindi davvero una grande presenza quella di Manuel de Oliveira. E direi, Boris, che con questo, che è un'altra di quei colpi da festival che bisogna, se possibile, avere, direi che possiamo chiudere la parentesi, quest'ampia parentesi su Venezia, e darci appuntamento alla prossima settimana, quando il festival lo racconteremo da lì. Alla prossima settimana, quando assaggeremo queste pietanze e vi diremo se saranno degne del profumo che abbiamo sentito. Grazie Boris, a risentirci. A risentirci. E allora, linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, abbiamo ancora un paio di incursioni sui set dei film italiani della prossima stagione, saranno con noi i soliti idioti, quindi qualche risatina forse ce l'avremo, ma per tornare sul cinema più d'autore impegnato sarà con noi anche Silvio Soldini, a fra poco. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpura, la quarta parte del nostro programma conclude un percorso che ci ha tenuto compagnia in tutto il mese di agosto con le novità del cinema italiano per la prossima stagione autunno-inverno, potremmo dire, mutuando un termine dalla moda. I film che vedremo, i film in preparazione, quelli pronti ma non ancora usciti, gli ultimi due di questo percorso agostano qui alla Rosa Purpura, e cominciamo con Silvio Soldini, con un regista, un nome che con Pane e Tulipani ha saputo in qualche modo modificare un po' il verso, il senso della commedia italiana contemporanea. Ha saputo trovare un grande pubblico, lo ha fatto però attraverso una commedia di qualità. Quell'episodio purtroppo non è stato sempre del tutto seguito. Ora lo stesso Silvio Soldini ci riprova con Il Comandante e la Cicogna, film che è pronto ad uscire fra la fine di settembre, l'inizio di ottobre, le date annunciate, un film che parla ancora della nostra Italia, girato fra Torino, Milano, la Val d'Aosta, ma soprattutto Torino, un film, dicevo, che parla della nostra Italia, del nostro presente, attraverso alcuni protagonisti, fra i quali Beppe Battiston, che si inseguono, c'è anche Alba Rohrwacher nel cast. È un film, e anche Valerio Mastrandrea non va dimenticato, un film che racconta tutto quello che siamo, che stiamo diventando, appunto con il sorriso sulle labbra tipico della commedia. Ma facciamoci raccontare qualcosa di più da Silvio Soldini. Senti Silvio, torni alla commedia, tu diciamo, ci hai abituato a entrare e uscire un po' tra i film più personali, non che le commedie non debbano esserlo, ma insomma, e le commedie che sembrano fatte per un pubblico un po' più ampio magari, è uno strumento che ti dai, quello della commedia, o è proprio un'esigenza tua ogni tanto di raccontare le cose con maggior leggerezza? Diciamo? Sì, forse di più la seconda. Mi piace cambiare registro e guardare un po' il mondo con un altro sguardo e soprattutto raccontarlo con una possibilità di leggerezza maggiore e anche creativamente di poter spingermi in territori che in un film realistico e drammatico difficilmente si possono toccare, insomma. Senti, il contesto nei tuoi film, soprattutto nelle tue commedie, ancora una volta è un personaggio, cioè la Venezia che abbiamo conosciuto con Battiston che la rincorreva, ma anche in Agatha e la Tempesta, no? C'era questa pianura. In questo film il contesto qual è e quanto conta nella storia? Ma forse in questo film è un contesto più ampio. Ho cercato di ambientare il film in una città qualunque dell'Italia oggi, del nord magari, quello sì, è una città del nord, è un misto di più di una città, non è sempre la stessa città. Quasi una città ideale, in un certo senso. Sì, città in cui è una città d'Italia e siamo nell'Italia, si vedono delle bandiere italiane spesso alle finestre che esistevano realmente ma che funzionavano anche per il film. E quello che avviene sotto gli occhi di Garibaldi, della Cicogna e anche di altre statue che così appaiono nelle piazze o nei giardini di questa città, è quello che avviene sotto i nostri occhi tutti i giorni, solo che loro, essendo un po', avendo un distacco maggiore del nostro, riescono anche a commentare. Ecco, una cosa che mi incuriosiva era il tuo lavoro con gli attori, perché qui abbiamo un po' la tua squadra del cuore, diciamo così, e un po' però anche delle novità. Come hai messo insieme queste due anime, da Mastrandrea a Battiston, diciamo? Ma non è difficile mettere insieme. Tra l'altro Mastrandrea e Battiston sono molto amici, quindi... Ma mi piace mantenere... come dire, degli attori amici con cui so... da cui so cosa posso ottenere e con cui conservo la voglia di fare qualcosa di diverso da quello che ho già fatto fino adesso, e allo stesso tempo anche conoscere e buttarmi in avventure più nuove, insomma, con persone che non conosco e che cerco di portare nel mio cinema, portandoli a fare magari dei personaggi che non hanno mai interpretato prima. Insomma, la Gerini per esempio parla in ligure, solo questo, tanto perché non volevo fare una Gerini così, troppo vicina a delle cose che tutti conoscono di lei, dei personaggi già fatti. E sono tutti un pochino diversi. Anche Luca Zingaretti, in una versione veramente inedita, che fa molto ridere, interpreta questo avvocato malaffano, un truffaldino, proprio figlio dei nostri tempi, con questa parrucca, questi capelli che gli arrivano fino alle spalle. Insomma, credo che in questo mestiere, credo che c'è, soprattutto in una commedia, bisogna, al di là di quello che si vuol trasmettere, al senso che si vuol dare a quello che stai raccontando, bisogna divertirsi. Prima di tutto noi, cioè il regista, gli attori, quelli che la fanno, se no non si può pretendere che poi si divertano quelli che la vedono. Ecco, nei tuoi film si parla sempre di personaggi che si trasformano grazie a degli incontri, spesso capita, ecco, insomma, nella tua cinematografia. Anche in questo caso è una storia, diciamo, di trasformazione, di passaggio, di cambiamenti? Sì, dei cambiamenti ci sono sempre. È difficile inventare una storia che non abbia dei cambiamenti, d'altronde, però non è così centrata su quello. Mentre soprattutto i miei primi film, sì, erano dei viaggi un pochino all'interno di personaggi che scoprivano qualcosa di nuovo. Questo, essendo anche un film più corale, non è per tutti questo, lo è per alcuni dei personaggi, ma non per tutti. Grazie mille. Silvio Soldini, regista di Il Comandante e la Cicogna nei cinema italiani nel prossimo autunno. E a questo punto noi andiamo avanti con una commedia popolare, invece, con qualcosa dove la risata è più ampia, è più diretta. Una coppia che ha avuto le sue radici in televisione, che ha saputo sfruttare il mezzo di internet, ma che poi ha trovato la consacrazione al cinema, consacrazione in termini di popolarità, che li ha portati fino a Sanremo, ricordate, lo scorso anno, con I Soliti Idioti. Stiamo parlando di Biggio e Mandelli, che sono pronti a riprovarci, anzi ci hanno riprovato con I Due Soliti Idioti. Sentiamoli. Che bello rivedermi. Ci siamo visti qui, ancora il film doveva uscire, poi ci siamo visti a Milano, che il film è uscito. Ci rivediamo qui per Il Due. Solo un sequel. Ovviamente la scusa per fare il secondo è il sequel, cioè inizia come se fosse la continuazione del primo film, poi va dove gli pare a lui questo film, cioè era solo una scusa il sequel, capito? Il continuo non l'abbiamo messo solo per obbligare Valsecchi a farci fare un secondo film, ma poi il secondo film non c'entra, è ancora più sperimentale, oltre, però sempre per famiglie, sempre un film volgare per famiglie. Ma tanto non è vero che voi siete volgari, no? Ma non lo so, cioè nel senso, si è abusato di questa parola volgare, no? Non è un po' riduttivo dire che è volgare, cioè è come se uno ti indica la luna e tu guardi il dito, insomma. È chiaro che c'è un linguaggio molto forte all'interno dei Soliti Idioti, soprattutto per quel che riguarda Ruggero e Gianluca. Però il tentativo rimane sempre quello di raccontare... Ruggero, sì, esatto. Però il tentativo rimane sempre di raccontare la realtà che ci circonda, quindi... Non voglio dire che siamo uno specchio, perché non spetta a me dirlo, però insomma tutti i nostri personaggi nascono da quello che noi vediamo intorno a noi. Poi sicuramente noi facciamo delle cose che probabilmente gli altri non hanno il coraggio di fare o di mettere in scena, e quindi probabilmente questa cosa fa imbestialire qualcuno, però non ci possiamo fare niente, nel senso, a noi diverte ancora fare I Soliti Idioti, evidentemente la gente per il momento si diverte. Una delle cose che vi è riuscita maggiormente, forse era la più grande scommessa, era: voi avete già rischiato col linguaggio in televisione, perché poi lì ancora di più, no? Cioè, non si paga neanche, però, quindi voglio dire. Certo. E invece è stato trasportare questa situazione sul grande schermo, e penso che sia la missione più riuscita poi all'interno del film. Adesso, se si vuol fare un altro mezzo passo in avanti, cosa si fa? Cosa avete tentato? Dove avete sperimentato? Guarda, noi sicuramente abbiamo imparato degli errori del passato, perciò abbiamo cercato di fare un film un po' più film del primo, perché il primo lo definirono i giornalisti un non film, forse cercando di insultarci, però a noi ha fatto piacere, nel senso che fosse un non film, nel senso che abbiamo trovato una maniera di adattare il linguaggio televisivo al cinema senza fare un film cinematografico classico, ed è un po' quello che volevamo fare, perché ci piaceva arrivare al cinema con un film che rompesse un po' gli schemi. Con questo secondo film abbiamo tentato di fare una trama un pochino più cinematografica, però sempre mantenendo questa rottura di schemi che a cui teniamo molto, insomma, capito? Noi vogliamo rompere gli schemi. Vogliamo rompere gli schemi. Proprio romperli fino a che la gente non ne può più, e questo è un po'... Ecco, in questa rottura di schemi, sono tanto di moda gli schemi poi in questo periodo, sì, con gli europei, hai voglia, mi chiedo, ma c'è un equilibrio diverso fra i personaggi nel nuovo film? O cioè, c'è qualcuno che guadagna terreno, qualcuno che lo perde? Sì, diciamo che nel primo film noi volevamo mettere una galleria quanto più completa di personaggi, quindi non... Sicuramente Ruggero era più popolare allora e lo è adesso, però non volevamo mettere solo Ruggero perché volevamo che fosse il film dei soliti idioti. Quello ci ha creato un po' di problemi sul primo film perché chiaramente il film era lungo e quindi un giorno uscirà una versione integrale di quel film, 140 minuti, un'epopea. E mentre su questo secondo film ci siamo concentrati sicuramente di più sulla storia di Ruggero e Gianluca, mettendo gli altri personaggi dei soliti idioti, ma diciamo la storia principale è quella del padre e del figlio, e quindi è quella da seguire. Ogni tanto ci saranno dei camei, degli altri personaggi che funzionano in quel punto, insomma. Come cambia fare un altro film dopo aver incassato quello che ha incassato? Cioè, intendo dire, no? Dove non sei più, dici, beh, vediamo come va, ma intanto nessuno si aspetta niente da me. Adesso tutti si aspettano tutto. No, poi, come dice Francesco, nulla. Nel senso che noi ovviamente lavoriamo come abbiamo sempre lavorato, senza... Cioè, le pressioni sugli incassi e cose non sono roba che compete a noi, ma sono robe che competono la produzione, la distribuzione. Noi non facciamo altro che continuare a divertirci nel fare queste cose, senza pensare che se incassa, se non incassa, quanto fa, quanto non fa, perché veramente non è il nostro mestiere. Noi pensiamo a divertirci, finché ci divertiamo, ci diciamo sempre con Francesco, e ci stiamo divertendo ancora molto a fare questo lavoro, siamo tranquilli. Poi senti, chiudiamo con una battuta, ne avete fatte poche, ma perché non vi hanno offerto la conduzione di Sanremo quest'anno, che c'era tutto quel vuoto lì, così sti stronzi. ma non lo so perché, ma comunque Sanremo è più bello per il nostro punto di vista, per quello che sono i soliti idioti, andare a Sanremo, rompere gli schemi anche a Sanremo e poi andarsene. Cioè, sicuramente se avessimo condotto Sanremo che gli è arrivata la telefonata, sicuramente se avessimo attaccato, può andare avanti. Sicuramente se ci fossimo trovati a fare tutte le serate di Sanremo avremmo dovuto diluire quello che invece è stato quello che abbiamo fatto quest'anno. Dobbiamo ringraziare comunque Morandi, Presta, Mazza, per averci dato Mazza per averci dato grande libertà. Cioè, noi abbiamo chiesto di poter fare, cioè loro ci hanno invitato, noi abbiamo chiesto di poter fare quello che sono i soliti idioti, pur essendo su Rai 1 e rischiando anche così le critiche, ma ormai ci siamo abituati, ed effettivamente loro ci hanno lasciato grande libertà. E questa, anche prima dicevamo in un'altra intervista, è la più grossa fortuna, cioè il fatto di poter dire quello che vogliamo noi e non avere qualcuno che ci imbocca o che comunque ci controlla i testi. E credo che questo sia quello che fa la differenza, perché poi la gente lo apprezza, ride, perché dice: è impossibile che gli hanno fatto fare sta roba a questi. Eppure è così, insomma. Bocca al lupo. Crepi il lupo, crepi sempre quel lupaccio. Ciao, ciao. Erano i soliti idioti Biggio e Mandelli che ci hanno anche questa volta tenuto compagnia in un'intervista. Con loro è quasi sempre impossibile fare un'intervista semiseria. E allora, anzi, vengono solo interviste semiserie. Dicevo, abbiamo chiuso la nostra trasmissione. Appuntamento la prossima settimana. Vi parleremo in gran parte, ovviamente, della Mostra del Cinema di Venezia, che sarà in corso di svolgimento. Grazie a Giorgio De Luca in redazione e a Peter Bescapè in regia. Un saluto da Franco D'Assisti.